sola, ferma, muta sola, ferma, muta sola, ferma, muta sola, ferma, muta sola, ferma, muta sola, ferma, muta sola. Firenze quanto è bella, di luce e di colore, nell'urlo del calore, nel pomeriggio dell'alto sole. Sto andando in fine ferie, moglie, figlio e figlia, ovvero con famiglia in colonna eterna. Motore d'un motore, rumore d'un rumore, sudore d'un sudore, per non vedere, per non capire che la tua gioia è sola, la tua speranza è sola, e tu vai tutta sola, per non vedere, per non capire che c'è una gioia vera, che c'è una gioia muta, che c'è una gioia sola davanti a te. Sull'autostrada ed è abbastanza ferma, ed è abbastanza muta, ed è abbastanza sola, e magari piuttosto morta, piuttosto morta, piuttosto morta. E la testa del grande Lenino, io l'adoro, io l'adoro, io l'adoro e la voglio adorare. Grande Lenino, la grazia mi fa, io l'adoro e la voglio adorare. Grande Lenino, la grazia mi fa. Bella turista americana, io non so quanti anni hai, sei sola lì sull'autostrada ed io non so quanti anni hai, sei morta proprio tutta morta ed io non so quanti anni hai. Pensa, io oggi vado in ferie senza sapere quanti anni hai. Non vedo bella americana, ma tu non puoi capire niente. Moglie, figlio e figlia, ma tu non vuoi capire niente. Nessuna bella sai si ferma, ma tu non vuoi capire niente. Ti son passati sopra il nove e ancora non capisci niente. Che se mai visto dico un uomo con moglie, dico figlio e figlia, a caccia dico delle ferie, con moglie dico figlia e figlia, fermarsi dico per la strada, con moglie dico figlia e figlia, per raccattare dico morto, nemmeno dico di famiglia. Dico morto, con tanto dico di famiglia, a caccia dico delle ferie, con tanto dico di famiglia.